Carduccio, torna. Tutto perso, tutto quanto il meregno le brucia. Tira la freccia, Robin Hood, tira la freccia, Robin Hood. Par le strade, la mie gente, le par carità. Ho deciso, nel sceriffo adesso il pagherà. Tira la freccia, Robin Hood, tira la freccia, Robin Hood. Che sta la realtà, forse un giorno Lady Maria da Mila tornerà. Tira la freccia, Robin Hood, tira la freccia, Robin Hood.